Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, puntata prepasquale, torniamo a parlare di selezione delle risorse umane in un paese dove, come è emerso più volte nel corso di questa trasmissione, si tende a farne troppo poca e spesso anche male. Ma quella odierna è una puntata decisamente speciale, soprattutto per la particolarità della storia che vi andremo a raccontare. Una storia che ci porta nel cuore del Texas per parlarvi di un giovane musicista, il quale, applicando le sue conoscenze artistiche al mondo del management, ha bruciato le tappe professionali fino a diventare manager delle risorse umane per una delle maggiori multinazionali al mondo. Il percorso di selezione è stato estremamente doloroso e strutturato. Circa 15 colloqui, quindi si è iniziato con dei colloqui telefonici, con lo psicologo, un secondo colloquio telefonico con un responsabile d'azienda, un viaggio a Bruxelles, colloquio e selezione di gruppo, 2 giorni interi a Bruxelles, incontrandomi con altri partecipanti in un contesto internazionale assolutamente competitivo. Dopodiché ritorno in Italia, un altro contatto, un'altra intervista con un responsabile di persona a Firenze e poi la conversazione finale in America con il responsabile mondiale della selezione. Giovanni Chirichella, poco più che trentenne, è, come dicevamo, Human Resources Manager. Vive e lavora a Houston. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora, spazio al notiziario. Nuovo riconoscimento per una ricercatrice italiana under 40 negli Stati Uniti. La American Physical Society ha assegnato ad Alessandra Lanzara, 38 anni, il premio Maria Goeppert-Mayer, che riconosce i successi di una giovane ricercatrice all'inizio di carriera nel campo della fisica. Alessandra Lanzara è stata premiata per i suoi studi di spettroscopia ad alta risoluzione. È docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università della California a Berkeley. Creare uno spazio comune per i giovani avvocati europei. È l'iniziativa sostenuta dall'eurodeputata Erminia Mazzoni della PDL, presidente della Commissione Petizioni a Strasburgo. Questo per sostenere la sfida, dice la Mazzoni, di creare uno spazio giuridico comunitario attraverso il processo di omogenizzazione di culture e strumenti. L'iniziativa è stata avviata in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Un gruppo di comuni di Valle d'Aosta e Piemonte insieme per lo scambio di conoscenze e la costruzione di nuove esperienze a favore dell'integrazione e della crescita dei giovani, potenziale motore di sviluppo locale. Il progetto, ribattezzato Memora, punta ad ottenere i fondi 100.000 euro previsti dalla Presidenza del Consiglio. Capofila dell'iniziativa è il comune valdostano di Latuino. Giovani talenti musicali si esibiscono da mercoledì a Bologna all'interno di una specifica sezione del Bologna Festival, importante rassegna di musica da camera, 5 i concerti di giovani artisti italiani e stranieri in programma fino al 26 maggio. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo 3 posizioni da senior economist all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con sede di lavoro a Parigi. Lavoreranno tutti per la direzione Scienza, Tecnologia e Industria. Scadenza per i CV tra il 10 e il 20 aprile. Info su irecruit1.oecd.org. Un marketing manager alla European Wind Energy Association di Bruxelles. Scadenza per i CV 6 aprile. Info su www.ewea.org. Un analista di software allo European Center for Medium Range Weather Forecasts di Reading nel Regno Unito lavorerà nella Networking and Computer Security Section, scadenza per i CV 22 aprile, info su www.ecmwf.int. Infine l'Institute for Prospective Technological Studies di Siviglia in Spagna, la caccia di ricercatori doc, postdoc e senior per una serie di posizioni. Scadenza per i CV 11 aprile, info su ipts.jrc.ec.europa.eu. E vi ricordo anche che potete segnalare voi stessi posizioni lavorative di rilievo all'estero scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel cuore del Texas per parlarvi di una vicenda veramente particolare, a cavallo tra musica e management. Nome: Giovanni. Cognome: Chirichella. Età: 34. Città di origine: Milano. Studi: Conservatorio di Musica, Milano, pianoforte, composizione e musica elettronica, laurea in filosofia, e master in organizzazione e risorse umane. Anno in cui hai lasciato l'Italia? Permanentemente il 2006. Per andare dove? Parigi. Perché? Un'assegnazione internazionale. Quale lavoro svolge attualmente? HR manager, quindi responsabile del personale. Dove? Houston, Texas, Stati Uniti. Tornerai? Non ho programmi definiti, tuttavia penso di sì. T-minus 10, 9, 8, go for main engine start, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero and lift off of the Delta IV rocket with goes. E l'audio di lancio di un razzo spaziale ci trasporta direttamente nel cuore del centro NASA di Houston, Texas, meglio conosciuto come il Johnson Space Center. Il protagonista della puntata di oggi, come avete appena ascoltato, non è ovviamente un astronauta, ma Giovanni Chirichella. Giovanni Chirichella è responsabile della selezione per General Electric a Houston. Giovanni, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato negli Stati Uniti, un percorso assolutamente particolare tra arte e management di imprese. In due parole spiegaci il perché. Tornando indietro al percorso di studi, ho iniziato in tenera età lo studio della musica, parallelamente a un percorso di studi più tradizionale, quindi studiato in conservatorio, pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, parallelamente alle normali scuole medie e al liceo scientifico. E sin dalla gioventù ho sempre pensato di prima o poi riuscire a trovare una collocazione e un ruolo professionale all'interno dell'ambito artistico. Quindi non ho mai pensato al percorso di studi tradizionali come un potenziale sbocco professionale, perché volevo fare il musicista. Con gli anni, alla fine del liceo scientifico, ho iniziato a lavorare in ambito artistico, prima come insegnante di pianoforte, come docente di composizione, come autore di colonne sonore e musiche, sia leggera che jazz. Però nel momento in cui ho dovuto confrontarmi con le regole del mercato, mi sono reso conto di quanto frustrante possa essere dover vendere un prodotto che necessariamente si scontra con delle regole di mercato e con dei compromessi che non necessariamente volevo considerare. Quindi ho cominciato ad aprire un attimino i miei orizzonti. Prima di passare alla fase più manageriale, Gianni, però ho una domanda relativa proprio al conservatorio, perché tu ci hai scritto: il conservatorio in Italia, per come l'ho fatto io, non aveva alcun rapporto col mercato musicale, sfornava talenti ma senza prospettiva. La musica in Italia è un sistema meramente relazionale, non c'è meritocrazia, sono parole forti. È vero, purtroppo. È una delle migliori scuole. A livello istituzionale, le nostre scuole, soprattutto quelle artistiche, sono considerate tra le prime a livello mondiale. Il problema è che hanno o non hanno alcun tipo di rapporto diretto con il mercato del lavoro. Quindi il focus principale è preparare la persona, ma non dargli gli strumenti per capire come potrà utilizzare queste competenze in un mercato del lavoro che oggi, purtroppo, in Italia non esiste. Ci si ritrova dopo 20 anni di studio, 15 anni di studio, ad avere delle competenze straordinarie che non hanno purtroppo alcuna diretta applicazione in un mercato del lavoro che viaggia su binari completamente differenti. Tu comunque cerchi in qualche modo di aprirti delle strade, verifichi le strade dell'insegnamento, le strade comunque della composizione, cerchi con, diciamo, anche una società di creare un tuo piccolo progetto che però alla fine, come molti progetti, molte start-up di giovani, non trova i finanziamenti necessari, è corretto? Esatto. La mia prima esperienza più aziendale, se vogliamo, e l'idea di base era: cerchiamo di capire se posso utilizzare queste mie competenze artistiche in un contesto aziendale, dove possono avere un'implementazione decisamente più pragmatica e si può generare probabilmente più valore di quello che si può generare in un contesto artistico che non esiste a livello professionale. E quindi, dopo la conoscenza di alcune persone in ambito aziendale, l'idea principale era quella di creare un circuito di distribuzione musicale utilizzando la tecnologia MP3, che ai tempi era ancora gli albori. Quindi l'idea era quella di cercare di creare un canale nuovo di distribuzione musicale utilizzando colonnine, utilizzando nuovi strumenti a disposizione, tecnologia internet, e cercando di lanciare questa tecnologia partendo dal contesto nazionale italiano. L'idea per sé era un'idea fantastica, tant'è che adesso il business dell'MP3 è diventato il business dominante della distribuzione musicale. Tuttavia, i primi ostacoli erano assolutamente insormontabili, perché prima di tutto si fa assolutamente fatica in Italia a trovare dei soggetti che siano disponibili a investire capitali su idee che non sono necessariamente a corto termine. E non è così negli Stati Uniti, è corretto? Assolutamente, assolutamente. Se questa stessa idea fosse stata implementata e generata negli Stati Uniti, probabilmente a quest'ora saremmo milionari. E poi c'era un problema SIAE, se ricordo bene. Assolutamente, la SIAE. La SIAE, che è una società che dovrebbe tutelare gli interessi degli artisti, allo stesso tempo porta la tutela all'estremo della paralisi e quindi non siamo riusciti a trovare un accordo perché questo strumento era assolutamente al di fuori dei loro concetti e delle loro logiche di distribuzione musicale e quindi purtroppo non trovando questo accordo con la SIAE il nostro business non era più sostenibile. Giovanni, tu comunque non ti rassegni, piano piano dalla musica possiamo dire ti sposti verso il mondo d'impresa e lo fai anche attraverso la facoltà che in quel momento frequentavi, filosofia, che piano piano ti porta verso tutto un altro mondo. Cruciale in questo è un master che ti proietta poi nel settore delle risorse umane. Raccontaci un po', ma molto sinteticamente. Dopo la chiusura del diploma in composizione, musica elettronica, Conservatorio di Milano, parallelamente per passione personale ho anche ottenuto una laurea in filosofia e indirizzo estetico. E col tempo ho capito che queste due lauree erano assolutamente complementari, tuttavia mi mancava un pezzo. Non ero necessariamente a conoscenza dei meccanismi e le logiche organizzative e aziendali, quindi non avrei mai potuto essere davvero efficiente nel pormi in una logica aziendale senza conoscere questi processi e queste logiche. Dopo un fortunato incontro con una professoressa della Bocconi, mi hanno assegnato una borsa di studio a copertura totale per questo prestigioso master in organizzazione e risorse umane. E quindi ho abbandonato qualsiasi altro tipo di studi e attività lavorativa che conducevo al momento e mi sono buttato a capofitto in questa esperienza incredibile dove ho potuto davvero conoscere e apprendere tutti quei tasselli che mi mancavano relativi all'organizzazione aziendale e ai processi aziendali. Ecco Gianni, questo master ti proietta poi verso importanti società tra cui IBM, Philip Morris, ma soprattutto General Electric, dove ti trovi ora, ma è importante ed è divertente se vogliamo raccontare come sei stato selezionato per la tua attuale posizione o comunque per la tua attuale azienda. La selezione è assolutamente strategica, la facciamo in Italia, la si fa in tutto il mondo, le multinazionali americane pongono tantissima attenzione sul processo di selezione perché tutto parte dalla selezione e il successo dell'azienda è determinato dalla combinazione tra i ruoli giusti con le persone giuste nei ruoli giusti. E mi ricordo che il momento in cui fui chiamato per questa bellissima opportunità internazionale in ambito risorse umane mi dissero che il percorso di selezione sarebbe durato parecchio tempo. Ma non avrei mai immaginato che sarebbe durato così tanto. Ho dovuto fare più di 15 interviste, contatti telefonici, contatti di persone, interviste di gruppo, tutto è partito in Italia, persone in America, psicologi, interviste di gruppo a Bruxelles, tutto è durato circa 2 mesi. E penso che alla fine mi abbiano assunto per sfinimento. Tuttavia è stato un percorso fantastico perché attraverso il percorso di selezione l'azienda capisce se la persona è quella giusta, ma anche la persona ha l'opportunità di conoscere meglio le logiche e la cultura aziendale. E quando si arriva alla fine del percorso, davvero è possibile per l'azienda determinare se ci sarà una perfetta alchimia o no, perché il processo di selezione è così ben strutturato e si ha l'opportunità di parlare con così tante persone e hanno l'opportunità di osservare il candidato in così tanti differenti contesti che alla fine le possibilità di successo sono assolutamente alte. Gianni, è molto interessante ascoltare quello che dice, purtroppo il tempo è sempre meno ma devo farla breve, comunque arrivi poi prima ad Atlanta, poi ti trasferisci a Houston e attualmente sei responsabile delle risorse umane, hai centinaia di persone sotto la tua responsabilità e altrettante possiamo dire ne selezioni, però una domanda fondamentale da farti, da porti. Come si fa selezione in Italia? È molto difficile generalizzare. In Italia la selezione la sappiamo fare molto bene. Bisogna distinguere tra un mercato del lavoro privato delle grosse multinazionali, sia straniere che italiane, dove probabilmente ritroviamo gli stessi processi e lo stesso rigore delle multinazionali americane. Il problema è che tuttavia l'80%, il 70% del mercato lavoro italiano è concentrato o nel pubblico settore, nell'impresa pubblica, o nelle piccole e medie imprese. E in questo caso trovo ci siano notevoli opportunità di miglioramento, perché in quel caso si prevale una logica più relazionale che non necessariamente la logica strutturata dei percorsi di selezione reale. Prima di dare la linea al traffico, Gianni, la domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Prima di tutto c'è un'assenza di cultura meritocratica diffusa. Penso che ci siano grosse opportunità per noi di cambiare la cultura. Bisogna assolutamente cercare di dare più opportunità a coloro che davvero lo meritano e i criteri di valutazione devono essere necessariamente quelli della performance, della valutazione e della cultura del potenziale di crescita all'interno dell'azienda. Il secondo punto è trovo ci sia purtroppo una stagnazione, una paralisi del mercato del lavoro per alcune ragioni, prima di tutto quelle legislative, quelle culturali, anche in ambito europeo è molto difficile muovere persone attraverso i vari stati. c'è un problema di localismo, ci sono grossissime multinazionali che competono a livello internazionale, a livello globale, e a livello italiano ci sono ancora tantissime opportunità di concentrare aziende e di renderle più grosse per poter competere a livello internazionale. E penso che anche dovremmo cercare di rischiare di più. Penso che le migliori opportunità sono quelle che si trovano solo quando si decide di rischiare, di mettersi in discussione di più. Trovo ci sia tuttora in Italia un approccio molto conservatore. Si ha molto paura di rischiare, si ha troppa paura di perdere. Coloro che hanno meno paura oggi hanno successo. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giovanni Chirichella, Human Resources Manager per General Electric Energy a Houston in Texas, storia decisamente particolare, la sua tutta giocata tra l'arte e il management. Giovanni è infatti un musicista, diplomato al Conservatorio di Milano, che proprio seguendo la perfezione dello spartito musicale, potremmo dire, è arrivato al top della selezione del personale oltre Atlantico. Silvia Baghdadli, professoressa di organizzazione e gestione delle risorse umane presso l'Università Bocconi, nonché direttore dell'Executive Master in Strategic Human Resources Management. Beh, parliamo un po' della selezione in Italia. Professoressa Baghdadli, come si fa? Vorrei premettere che quando si parla di Italia è molto difficile generalizzare, quindi vorrei dire che mi sto concentrando su quella piccola fascia di aziende italiane che sono le grandi imprese italiane, ricordandoci che poi sostanzialmente l'80% dei nostri lavoratori lavora invece nella piccola e media impresa, quindi precisiamo che in Italia dobbiamo distinguere sempre fra il mondo della piccola e media impresa che ha processi diciamo più informali, poco strutturati e che caratterizza la maggior parte della nostra produzione e il mondo invece della grande impresa, dove nella grande impresa c'è sicuramente anche l'impresa multinazionale, italiana e non italiana. Ecco, io devo dire che rispetto ai processi di selezione, ma in generale rispetto ai processi di gestione delle risorse umane della grande impresa italiana, non vedo una grande differenza con quello che accade nei paesi esteri, siano essi europei, oltreoceano, l'America, insomma qualsiasi altro paese. Non vedo un problema fondamentale di meritocrazia, cioè se penso alle nostre migliori aziende, le vedo strutturate in maniera molto simile alla grande impresa multinazionale. Credo che Giovanni, che lavora oggi in GE America, ma che ha iniziato diciamo in Italia a Nuova Opinione, quindi diciamo nella terra nostra, non credo si possa dire che ci siano delle grandi differenze o una discriminazione rispetto alle persone più capaci. Ecco, professoressa, la mia domanda immediata è questa: posto che nella media e grande impresa italiana c'è un buon metodo di selezione anche qui, però il fatto che poi la stragrande maggioranza delle persone in Italia vengono impiegate dalla piccola e media impresa, dove, come dice lei, i metodi di selezione sono più informali e meno strutturati, pone un problema ai nostri giovani professionisti. Sì, però almeno guardando diciamo il mercato del lavoro da una prospettiva che mi rendo conto è limitata, che è quella per esempio dei nostri studenti a Bocconi, è evidente che i nostri migliori studenti guardano normalmente alla grande impresa multinazionale, tipicamente hanno percorsi già internazionali sin dall'università, e quindi poi se parliamo dei talenti, diciamo quel 5-10% di migliori che escono dalle università, migliori in Italia, dai master migliori, a meno che non abbiano una storia di famiglia imprenditoriale, a meno che non abbiano una capacità imprenditoriale particolare, quindi di sviluppo di una nuova impresa, che però nel nostro paese questo sì è decisamente più difficile, normalmente guardano alla grande impresa multinazionale che poi consente ai migliori, per esempio, di entrare in un percorso estero, esattamente come ha fatto Giovanni, e quindi andare anche a fare esperienze altrove. Riguardo alla selezione, io un problema diciamo strutturale legato all'Italia lo vedo su due aspetti: uno più macro istituzionale, che ha già citato Giovanni, che è il problema, se vogliamo, di una stagnazione del mercato del lavoro, quindi comunque la mobilità nel nostro contesto nazionale, anche fra grandi imprese, è limitata da un mercato del lavoro diverso, più stagnante, ed è limitata anche da una crisi strutturale di molti dei nostri settori, a partire da quello industriale. Un altro problema che vedo per le giovani talente, non so come spiegare così, sicuramente la carriera ai vertici per le donne brave, sto parlando di sempre di quel 5-10% di persone superiore alla media nel nostro paese, è una carriera più difficoltosa. Giovanni, c'è qualcosa che vorresti chiedere a Silvia Baghdadli? Come pensi sia possibile accelerare il processo di cambiamento e rinnovamento culturale necessario per rendere processi di selezione sia interna che esterna parte integrante della nostra realtà organizzativa anche a livello di piccole e medie imprese? Sulla piccola e media impresa, laddove rimangono realtà proprio micro, sto parlando di imprese sotto i 50 dipendenti che però sono tantissime nel nostro paese, c'è il classico processo di evoluzione che porta ad una struttura imprenditoriale con una, diciamo, un'unica persona al comando che più o meno fa tutto in maniera strutturata, ha la possibilità di strutturare una funzione HR che però chiaramente all'inizio si muove su tutti i fronti, incluso la selezione. Sul fronte della media grande impresa, cioè che cosa potrebbe consentire un cambiamento culturale importante, credo che ci sia tanto da cambiare nelle nostre istituzioni, nella cultura delle nostre istituzioni. Noi sin qui abbiamo parlato, io sin qui ho parlato di azienda, ho detto non vedo grandi differenze, ma se non stessimo parlando di giovani talenti che vanno in azienda, ma stessimo parlando di musicisti, come dicevi prima, della ricerca, del sistema universitario, dell'innovazione tecnologica, beh, allora credo che l'Italia sia sicuramente un paese dove i giovani talentuosi hanno molte, ma molte più probabilità di avere il successo che meritano all'estero. Amara considerazione, potremmo dire. Grazie a Silvia Baghdadli, professoressa all'Università Bocconi. Una domanda, ma proprio in un flash a Gianni per chiudere: quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà o sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio all'estero? Il mio consiglio sarebbe quello di dare sempre priorità alle proprie passioni, che è un po' la mia esperienza, ascoltare la propria identità personale e culturale durante qualsiasi scelta di tipo educativo e professionale, perché purtroppo quando le motivazioni sono esterne, opportunità professionali o consigli esterni, la strada per la mediocrità è sempre aperta. E l'altro mio consiglio è quello di andare ovunque ci siano le condizioni adatte per dare forma a un proprio sogno e magari tornare in Italia per raccontarlo ad altri. In fondo siamo sempre un popolo di poeti e naviganti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un progetto decisamente interessante che mira a mappare in modo innovativo le nostre migliori eccellenze della ricerca in giro per il mondo. Riccardo Rossi, ideatore di mappacervelli.org. Mappacervelli.org nasce dalla mia esperienza negli Stati Uniti. Quando ero là negli Stati Uniti a lavorare, mi sono reso conto che gli italiani sono tanti, silenziosamente e molto operativamente ovunque. Quindi sono tanti, ma c'era la necessità di quantificarli e soprattutto di vedere quanti sono e dove sono, perché proprio partendo dal presupposto che ciò che non si misura non vale e non esiste, ciò che non si misura economicamente anche non vale, e temo che per i ricercatori italiani all'estero questo valga molto. E quindi l'idea è stata quella di fare un censimento, un database. Di database ce ne sono tanti, però fare un database strutturato, curato, al fine di quantificarli e di visualizzarli sul globo, proprio applicando delle tecnologie basate sul web e basate sui software fondamentalmente. Nel vostro database di Mappa Cervelli quanti ricercatori italiani all'estero avete mappato finora? Attualmente siamo quasi ad un migliaio, diciamo circa 850. In realtà di nomi ce ne sono molti di più, ma questi sono quelli che abbiamo curato e controllato. Dove si trovano soprattutto questi ricercatori italiani e cosa fanno? In quali aree soprattutto lavorano? Uno dei nostri scopi è visualizzare i flussi, cioè da dove arrivano, dove vanno e se rientrano eventualmente. Ovviamente il Nord America gioca un ruolo fortissimo, tantissimi sono in Nord America, ma non solo, Nord Europa, Scandinavia, è un altro focus, un altro luogo molto, molto pieno di italiani, l'estremo oriente, Singapore, direi se devo fare una generalizzazione nell'emisfero settentrionale con particolare attenzione agli Stati Uniti d'America e al Canada. La domanda di rito è sempre perché se ne vanno, perché lasciano l'Italia, e soprattutto conosciamo bene il fatto che c'è una circolazione di cervelli nel mondo, ma spesso questo purtroppo in entrata non riguarda l'Italia. Ed è per questo motivo che è importante osservarne i flussi. Il perché se ne vanno è abbastanza naturale.